Non so quanti di voi siano in grado di elencare così sui due piedi tutti e sette i peccati capitali. Io personalmente non ci riesco mai, di solito parto bene con ira, invidia e lussuria e ci aggiungo con sufficiente disinvoltura la violenza e l'accidia. Certe volte riesco a ricordarmi della superbia, ma poi inevitabilmente mi blocco. Il settimo, per un motivo o per l'altro, non mi viene mai. E non statemi a dire che la cosa dipende dal fatto che dall'elenco che vi ho testé sottoposto il vizio che manca è quello della gola e che questa dimenticanza evidentemente non è altro che il sintomo di una mia riluttanza caratteristica a riconoscere la gravità di quel particolare peccato. Per essere goloso, lo ammetto, lo sono abbastanza, ma sono anche sicuro che se per avventura cominciassi proprio con la gola dimenticherei clamorosamente l'ira o la superbia o qualcosa d'altro. Fate la prova voi stessi, da solo in compagnia. E vedrete che quelle sette categorie sono difficili da richiamare alla memoria in blocco. A parte la lussuria, la nozione della cui peccaminosità è iscritta a lettere di fuoco nel DNA della cultura cattolica del paese, e a parte l'accidia, dalla quale paradossalmente ci si ricorda sempre, perché come concetto è un po' meno familiare degli altri, in quell'elenco si finisce sempre per perdere il filo, come si finisce per smarrirsi d'altronde in tutte le liste canoniche dello stesso tipo. Provate pure, se non mi credete, con le quattro virtù cardinali o le cinque opere di misericordia corporale, o se preferite uscire dal campo della teologia con i sette colori dell'arcobaleno, le otto meraviglie del mondo o i nove cori angelici del paradiso di Dante. Ed è ovvio d'altronde. Si tratta di elenchi che un tempo venivano elaborati soprattutto per uso didattico, nel senso che vi si faceva imparare a memoria i giovinetti sotto minaccia di gravi rappresaglie per gli inadempienti, ma che presupponevano, per essere utilizzati, una unanimità criteriologica di cui ai nostri giorni ci siamo dimenticati, tanto che nessun docente di questo mondo avrebbe oggi il coraggio di sottoporvi ai propri alunni, fossero pure i più pazienti e i più disciplinati che ci si possa augurare. Per cui, invece che imprecare contro l'Alzheimer incipiente, che tanto non serve a nulla, faremmo meglio a consolarci addebitando queste piccole defiance di memoria al progressivo affermarsi della libertà di pensiero. Sia come sia, non ci si può non compiacere alla notizia che almeno una voce dal più fastidioso di quegli elenchi, che è quello appunto dei peccati o dei vizi capitali, ha qualche probabilità di essere rimossa. Si apprende infatti dai giornali, nel nostro caso Repubblica del 13 ultimo scorso, ma deve essere apparsa anche altrove, si apprende che l'associazione della Question Gourmande, formata da un gruppo di amici del defunto panettiere Lionel Poilin, detto re dell'antibaguette, chiunque fosse costui, confesso di non saperlo, allora che l'associazione della Question Gourmande ha chiesto a gran voce con una supplica al Papa la revisione della lista con la cancellazione dal novero dei peccati che possono precludere l'accesso al Regno dei Cieli, appunto di quello di gola. Tra gli sponsor dell'iniziativa si legge molti nomi illustri, dallo chef Alain Ducasse al pittore Botero, dall'accademico Jean-François Revel alla russista Hélène Carrère-Denkosse. La supplica, che ha ricevuto l'appoggio esterno di Paul Bocuse, il celebre capocuoco di Lione, sarà inoltrata in Vaticano a fine gennaio e non è detto che la risposta delle competenti autorità romane debba essere di necessità negativa. In fondo, come ha osservato Catherine Soulier, presidentessa dell'associazione che ha assunto l'iniziativa, la Chiesa, nei suoi 2000 anni e passa di storia, è stata spesso e volentieri associata alla buona cucina. Io personalmente avrei i miei dubbi. È vero che ormai nel giudicare l'eticità di un'azione o di un comportamento si tende a prescindere entro certi limiti da quella che una volta si definiva la materia del peccare, come a dire che si rinuncia a una rigida classificazione degli atti permessi e di quelli vietati e ci si concentra soprattutto sulla soggettività di chi li compie, sullo spirito e le intenzioni che determinano il suo agire. Ma è anche vero che questa impostazione morale è caratteristica della Riforma e nella versione laicizzata rappresentata dalla ragion pratica di Kant dell'illuminismo. E i vertici vaticani, con la Riforma e l'illuminismo, non hanno mai bazzicato volentieri. La Chiesa sarà stata spesso associata alla buona cucina, ma nella sua storia più che bimillenaria non l'ha mai teorizzata. Per cui, Anche se dell'attuale pontefice, come credo abbia osservato Feyerabend, ci si può aspettare di assolutamente di tutto, almeno quando non siano in gioco la teologia della liberazione, i problemi dell'aborto e quelli del sacerdozio femminile, restano piuttosto forti le probabilità che le speranze dei proponenti, che non a caso insistono sull'opportunità di distinguere in modo chiaro tra la golosità rivolta verso il piacere e la condivisione del cibo e l'istinto bruto, bestiale dell'incordicia, c'è qualche possibilità che queste speranze restino deluse. E tutto sommato, secondo me, vi sta bene. Perché quali che siano i ragionamenti addotti, non vi sarà sfuggito che le motivazioni di quel documento potrebbero essere considerate da un certo punto di vista altamente deplorevoli o perlomeno non del tutto altruistiche. Avete notato, suppongo, che a parte l'accademico Jean-François Revel, che se ben ricordo il tipo è sempre stato capace di tutto, e la russista Hélène Carrère-Denkos, che francamente non so chi sia, e tutti gli altri che più chi meno hanno a che fare col mondo della ristorazione professionale. È difficile quindi sfuggire al sospetto che più che un'auspicabile modernizzazione del pensiero morale della Chiesa mirino soprattutto a qualche vantaggio di tipo personale. Anche il pittore Botterò, visto le caratteristiche fisiche ed estetiche dei suoi modelli, non deve essere del tutto disinteressato. Ma forse questo mio giudizio è ingeneroso e codino. In fondo, in un mondo come quello di oggi, in cui c'è persino chi per perseguire i propri personali interessi decide, a scapito di quelli del paese, di fare presidente del Consiglio, non bisognerebbe scandalizzarsi se qualcuno si assume a viso aperto e senza inutili infingimenti la semplice responsabilità di una supplica al Papa. L'usanza, anzi, si potrebbe estendere a tutto vantaggio della trasparenza ideologica, che resta un valore in sé, della morale collettiva. Il presidente Bush, tanto per fare un esempio, potrebbe meglio perseguire i propri obiettivi medio orientali dopo aver ottenuto dal pontefice la deregulation della violenza. Quei nostri onorevoli che sulle orme dei ministri Bossi, Fini e Prestigiacomo propongono oggi, ai fini dell'ordine pubblico e di una maggior decoro stradale, una qualche forma di riapertura delle case chiuse, potrebbero provare a chiedere al Vaticano la depenalizzazione della lussuria. Sarebbe una causa difficile, forse, ma pensate ai vantaggi. Pensate ai vantaggi. Non so, il suo successo eliminerebbe tra l'altro le perplessità manifestate in merito dal centro cattolico, placando i vari Buttiglione, Follini, Giovanardi, riportando nella Casa delle Libertà la necessaria concordia in questi tempi difficili. Tutto si tiene, sapete? Tutto si tiene, e in fondo i peccati che contano oggi sono ben altri.